Dialogo dodicesimo. Raccontò Tamim Darimi: il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse tre volte: la religione è fedeltà. Gli chiedemmo: a chi? Rispose: ad Allah, al suo libro, al suo apostolo, all'autorità islamica e alla gente comune.